e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti a tutti, torniamo insieme per una nuova puntata di Cuore Denari. Oggi in realtà sono sola al microfono, ma non mancheranno i temi di denari perché, come sapete, oggi è giovedì e nella seconda parte del programma ci sederemo sui banchi della nostra scuola del risparmio per parlare della casa come investimento, un progetto che sembra essere tornato proprio tra le priorità degli italiani e lo confermano anche i dati dell'Agenzia delle Entrate sulle compravendite del secondo trimestre del 2016 che sono pubblicati proprio questa mattina, un dato che smentisce chi aveva previsto un calo delle transazioni dopo alcuni trimestri positivi, con un bel più 22,9% per le compravendite del settore residenziale. Quindi non perdete l'appuntamento con la nostra esperta a partire dalle 11:20. Se avete dubbi, domande, volete chiarimenti, siamo raggiungibili come sempre all'800 24 00 24. Potete scriverci al 349 238 6666 anche su WhatsApp. Mi sembra che questi siano ormai dei numeri a voi familiari, che dovrebbero suonarvi familiari. A proposito di suoni, noi apriamo la nostra puntata parlando di suoni fastidiosi, di rumore, di inquinamento acustico, un problema che, lo sappiamo bene, ci tocca tutti da vicino e che soprattutto al ritorno delle vacanze sembra ancora più fastidioso, invadente e minaccioso. Non ha dubbi d'altronde l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che, pensate, individua nei frastuoni derivanti dal traffico cittadino il più rilevante problema ambientale europeo dopo l'inquinamento atmosferico. Allora, quanto è rumorosa la vostra vita? O, se preferite, una domanda di riserva: che parte occupa il silenzio nella vostra giornata? 800 24 00 24. C'è una stanza più tranquilla perché cerco di rilassarmi e trovare il mio centro, ma non ci riesco con questo. Charlotte, questa città non si calma mai. Lei deve imparare a bloccare il rumore di New York e ascoltare solo se stessa. Chissà quante volte vi sarà capitato di provare una sensazione simile, una sensazione di fatica. Chi lavora in un open space la conosce bene, ma penso che non se la cavi meglio chi ha dei vicini rumorosi che magari tengono la TV a volume alto, passano l'aspirapolvere in ore improbabili, o chi vive in strade molto trafficate. Allora, qual è il rumore che avvertite come più fastidioso, quello che vi impedisce di concentrarvi oppure non vi permette di prendere sonno o vi rende irritabile? Io giro subito la domanda al nostro ospite di oggi, che di suoni e di rumori se ne intende parecchio, il dottor Andrea Franzetti, primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Lei come se la cava con i suoni, rumori, il frastuono? Vabbè, io li sopporto abbastanza, però direi che quando ci sono determinati suoni, a volte determinate azioni, determinati momenti della vita diventano più difficili. Allora, oggi parleremo dei suoni che ci invadono, dei rumori che ci invadono, perché le orecchie non si possono spegnere, ma anche dei suoni che avvertiamo all'interno da fuori e da dentro. All'interno del nostro orecchio. 800 24 00 24, il numero ve l'ho già ricordato. Dottor Franzetti, c'è rumore e rumore, e anche una sensibilità individuale al rumore, perché ciascuno di noi avverte alcuni rumori più fastidiosi di altri. Come mai? È un problema di orecchio, di sensibilità o che altro? Ma allora, le cause possono essere duplici. C'è sicuramente un grado di somatizzazione, cioè un grado di atteggiamento psicologico che può indurci ad aver fastidio dei rumori senza che l'orecchio o il sistema acustico abbia dei problemi. Ma ci sono anche dei rumori che diventano fastidiosi perché qualcosa non sta funzionando bene nell'orecchio e nella catena di trasmissione fino al cervello. Quindi sicuramente, se c'è un rumore che diventa particolarmente fastidioso, vale la pena comunque guardarci dentro. È vero che anche le condizioni in cui si produce il rumore fanno la differenza. Stavo pensando, ad esempio, il rubinetto che gocciola di notte è più fastidioso che durante il giorno, questo è indubbio. Il rumore continuo di sottofondo diventa familiare e alla fine quasi non lo sentiamo più, mentre se è improvviso, violento, come uno scoppio, ci spaventa. Quando diciamo un rumore che mi è saltato il cuore in gola, dottor Franzetti. Ma allora, sicuramente tantissimi rumori, sia esterni che interni, possono essere mascherati. e le situazioni e le circostanze in cui siamo possono mascherare il rumore e quindi non portarcelo a livello di attenzione. Sì. È stato fatto per esempio uno studio che nessuno non ha rumori dentro di sé o fuori di sé, nel senso che se uno viene messo in una camera totalmente silente dove non esiste né vuoto né rumore, nessuno dirà che non sente niente. Quando esce, ciascuno ci dirà una sensazione che percepisce. Ecco, sentiamo un rumore. È dalla regia, Carmelo, vedi un rumore che, come lo sentite, fastidioso, questo rumore, accompagna. Questo rumore, anche in assenza di rumore, è indice della nostra vita. Eh sì, certo. Una vita che si accompagna anche con il rumore, o il rumore accompagna anche la nostra vita. Comunque, questo rumore, più o meno tollerato, al di là delle reazioni individuali, è più o meno sempre presente, impatta indubbiamente sulla nostra salute, non solo su quella del sistema uditivo di cui parleremo oggi, che è indubbiamente quello più esposto, perché noi possiamo chiudere gli occhi ma non spegnere le orecchie. Tra l'altro impatta sulla salute generale, tanto che l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha stilato un elenco dei principali effetti uditivi ed extrauditivi dell'esposizione al rumore. Li commentiamo rapidamente un po' per condividerle con i nostri ascoltatori, che invito anche a chiamarci per raccontarci la loro esperienza, e poi naturalmente ci concentriamo sui rumori che ci invadono e su quelli che sentiamo dentro di noi. All'inizio ci può essere una sorta di fastidio, no? Sicuramente l'interferenza con la comunicazione vocale è nell'elenco stilato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente. Certo. E poi parla dei disturbi del sonno, ad esempio. Dopodiché, anche con difficoltà a addormentarsi o a riaddormentarsi, effetti anche sulla performance, cioè sulla capacità di eseguire determinate azioni o determinati comportamenti durante la giornata, o anche per esempio a leggere, oppure dei rumori che hanno effetti psicopatologici, che vuol dire aumento di stress, fino ad arrivare magari a portare delle alterazioni cardiovascolari come l'ipertensione. Sì, perché il rumore è attenta anche alla salute del nostro cuore. Gli ultimi, c'è questa relazione tra rumore e frastuono di infarto, dottor Franzetti. Certo, assolutamente. E come cofattore, chiaramente ci devono essere degli altri fattori predisponenti, non è che uno gli viene l'infarto per il rumore. E poi sui bambini il rumore è anche cronico, perché pensiamo che i bambini crescendo, magari un rumore che a noi non sembra pericoloso, però cronicamente, cioè sottoposti per tanto tempo, possono avere dei problemi. E quindi è l'esposizione anche continuativa che fa la differenza, certo, al rumore. Certo. E poi naturalmente problemi alle nostre orecchie, disfunzioni uditive indotte da rumore, recita proprio nell'elenco l'Agenzia Europea per l'Ambiente. Santo cielo, che orecchie grandi hai, nonnina, io non me ne ero mai accorta, sai. Ah, c'è una spiegazione, mia cara, servono per sentirti meglio quando mi parli. Allora, dottor Franzetti, la nonna di Capuccetto aveva le orecchie grandi, diceva di sentire bene, della serie anche le dimensioni contano, ma spesso abbiamo la sensazione che il nostro udito sia un po' appannato, sottotono, la capacità uditiva, lei ce l'ha raccontato tante volte, può diminuire progressivamente, ma in modo quasi impercettibile, tanto che spesso noi non ce ne accorgiamo e ci adattiamo un po' a questa situazione. E allora, oggi invece vogliamo concentrarci e prendere consapevolezza, come si dice, dello stato di salute del nostro udito, e allora ascoltiamo insieme la nostra scheda. Hai difficoltà a sentire se più persone parlano contemporaneamente? Senti bene al telefono o devi farti ripetere le parole? I tuoi familiari ti chiedono di abbassare la radio o la TV? Senti dei sibili, dei campanellini, dei ronzii? Hai difficoltà a capire la voce di una donna o di un bambino? Perdi il filo del discorso e di conseguenza rispondi in modo inappropriato? Alcuni suoni ti sembrano troppo forti, fastidiosi? E allora, tra i suoni fastidiosi ci scrivono i nostri ascoltatori. Claudia, uno dei rumori più fastidiosi che non riesce proprio a farla concentrare, è il tagliaerba. Per Ennio è il rumore alternativo di caldaie e condizionatori di notte. Per Maurizio, non cito la città perché sennò magari è individuabile, ma è il rumore più fastidioso, la voce della suocera la mattina appena sveglio. E dottor Franzetti, che cosa le raccontano? La nostra scheda mette in condizione i nostri amici da casa a provare a riconoscere e a individuare no, dei segnali che potrebbero aiutarli a comprendere un po' lo stato di salute del loro udito. Mentre questi rumori fastidiosi che i nostri ascoltatori ci hanno descritto. Allora, il rumore fastidioso bisogna distinguerlo in questo modo. Se è un rumore fastidioso perché è forte o se è fastidioso perché ha una determinata tonalità ma non è forte. Perché? Se è fastidioso perché è forte, ci dice che è l'orecchio che non è particolarmente protetto. Se invece è non forte ma è quel tipo di tonalità, non so che tonalità abbia la suocera, mi domando perché la mattina presto quando si sveglia sia lì, però questo va bene, questi sono una battuta. È vero. No, però se c'è una tonalità particolare, ma il rumore non è particolarmente forte, allora questo invece ci indica qualcosa che non va a livello magari della chiocciola, perché la chiocciola è come una specie, immaginiamo un organo con tante canne, sì. Ogni punto ha una determinata frequenza. Esiste un fenomeno che si chiama iperacusia, per cui a un certo punto in un punto della chiocciola una frequenza disturba, cioè è amplificata in maniera anomala. Adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, torniamo subito dopo insieme. Cuore e denari. Si chiama misofonia, il fastidio che alcune persone provano nel sentire alcuni rumori, ad esempio quello del vicino che sta masticando, l'abbiamo sentito per ultimo. Torniamo con questa selezione di suoni fastidiosi, perché parliamo oggi di suoni e di rumori, di inquinamento acustico. Qui in studio con me il dottor Andrea Franzetti, Deborah oggi non c'è, ma torna come sempre l'appuntamento della nostra scuola di risparmio, in cui parleremo di casa, dell'investimento casa. Dottor Franzetti, anche le nostre case sono particolarmente rumorose. Assolutamente, certo. Allora, di inquinamento acustico, l'inquinamento acustico, gli anni, i farmaci, le infezioni trascurate, i traumi, questi sono tutti nemici del nostro udito, no? Ci fa una sorta di hit parade, in modo che un elenco ragionato per capire se per certi versi non possiamo difenderci, ma qualche cosa possiamo fare. Vabbè, allora diciamo che ci sono delle problematiche che sono personali, il trauma piuttosto che l'infezione ricorrente, e queste vanno trattate persona per persona. Poi ci sono delle problematiche che sono sociali, cioè quando tutti ci immergiamo in un determinato ambiente o in una determinata situazione in cui il rumore diventa dannoso per tutti, è anche stabilita una soglia massima di rumore che non dovrebbe mai andare sopra i 65-70 decibel. Per cui laddove noi lavoriamo sottoposti magari a rumori non neanche fortissimi ma cronici, no, possiamo andare incontro a una problematica che diventa anche una problematica sociale. Non ultimo, per esempio, da considerare, lo dicevamo prima, dei bambini, il rumore nella scuola. Certo. Perché il rumore nella Vorrei leggerle un messaggio a proposito di bambini. Abito in zona di movida, il rumore di sera e di notte è costante ed estate alto, tuttavia mi sto abituando e anche mia figlia di 6 anni si addormenta comunque. La domanda è: stiamo caricando uno stress di cui non ci accorgiamo più? Ma allora, se diciamo così, la bambina si addormenta, di solito un bambino si addormenta anche per difesa, sì, per cui ha più facilità ad addormentarsi. Dipende dalla rilevazione di quant'è questo rumore, se ha dei picchi, se non ha dei picchi, per cui è possibile anche attraverso la ASL fare dei rilievi di rumore se uno pensa che ci siano dei rumori molto molto forti o dei rumori molto molto fastidiosi. Non penso che soltanto una situazione così breve, che è il momento dell'addormentamento, possa dare un danno. Però vivere comunque in un appartamento che è particolarmente rumoroso, perché si trova, in questo caso della nostra amica, se ci si può proteggere movida, meglio. E certo. Doppi vetri, piuttosto che... Ci raggiungerà il nostro Maurizio Melis tra poco e ci racconterà che cosa si può fare nelle nostre case per proteggersi dal rumore. Certo. E che cosa si sta facendo nelle nostre città, o si potrebbe fare? Intanto arrivano dei rumori fastidiosi abbastanza insoliti. Un nostro amico ci scrive che per lui fare colazione al bar è una tortura, perché non sopporta il rumore dei baristi che mettono a posto le tazze. Ah, quello è un rumore acuto fastidiosissimo. Ha ragione, quindi. Assolutamente. Poi le moto. Ma perché? Perché basterebbe muoverle con più cura. Vede, quindi se i baristi sono all'ascolto, il dottor Franzetti ha un messaggio anche per voi. Naturalmente, in testa alla nostra classifica, il rumore delle moto truccate. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi che raccontano appunto questo fastidio. E eccolo qua. Vi dà fastidio questa tazzina? Ma che fastidio vi dà la tazzina? Dai! Invece, attenzione, noi abbiamo detto che avremmo parlato dei rumori esterni e di quelli interni, e Loris ci scrive: nel silenzio assoluto mi sembra di sentire il cuore. È reale o suggestione? Loris, il cuore ce l'ha sicuramente anche lei. E poi ogni tanto è vero, batte nell'orecchio. Ma sentiamo anche Francesco da Milano, perché i due interventi possono avere una liaison. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno. Il mio problema è che da un po' di tempo sento un fischio costante, continuo, dal mattino quando mi sveglio fino alla sera prima di andare a dormire, molto basso, non fastidioso in termini di dolore, ma è continuo, e veramente quando anche uno dice vorrei stare un attimino in silenzio, sento questo fischio finché appunto non mi addormento. Allora, grazie Francesco. Francesco sente il fischio, il nostro amico che ci ha scritto il WhatsApp, Loris, sente invece battere il cuore, rumori all'interno del nostro orecchio. È un segno di che il nostro udito sta perdendo qualche colpo? No, sono da considerare, però, da non trascurare. Cioè il rumore pulsato, tipo il battito del cuore, non è normalmente noi non sentiamo il nostro cuore, normalmente, perché sennò lo sentiremo sempre. No? Sì. Allora, il rumore pulsato deve comunque farci fare dei controlli della pressione arteriosa e eventualmente un esame che si chiama Doppler dei tronchi sovraortici, giusto per escludere dei fenomeni di circolazione che possono dare questo. Se questo invece non, diciamo, se tutto è a posto, allora può essere legato a dei fenomeni tipo muscolo tensivo, un pochino di stress in un determinato momento, quindi conviene solo riposarsi, e allora a quel punto si può far finta di niente. L'altro rumore invece che sente l'altra persona, diciamo che è il tipico acufene, e in questo caso bisogna cercare di capire: ci sono degli acufeni che possono essere affrontabili, altri no. Esiste un esame che sono i potenziali evocati del tronco encefalico. Che nome difficile, non riusciremo mai a ricordarlo. ABR è una sigla, che è una specie di elettroencefalogramma, lo spiego in maniera molto termine, che invece di studiare solo le onde del cervello studia tutta l'onda da quando parte l'orecchio a quando arriva al cervello, e ci dice dove c'è un rallentamento, dove ci può essere un'interruzione, e quindi se è una forma affrontabile o se è una forma invece di cui bisogna fare un percorso che si chiama di adattamento. E poi ci potrebbe essere comunque un consiglio che diamo al nostro amico e a tutti, con la musica, se vogliamo andarlo adesso, eccetera, si potrebbe fare un giochetto per cercare di mascherare in qualche modo questo fastidio. Allora, noi naturalmente il dottor Franzetti ci spiegherà come fare. Farà anche il suo domandone, perché che ha il quizzettone del dottor Franzetti non possiamo perdercelo. Chi conosce Cuore Denari sa che è proprio un appuntamento fisso, e quindi state bene attenti, prestate, come si dice, orecchio, anche perché abbiamo dei libri di Walter Longo, che è stato con noi a parlare della sua dieta della longevità in anteprima, e oggi tra l'altro mi sembra che sia proprio oggi l'uscita, potete averli in anteprima, ne abbiamo Laura, due copie, quindi i primi due ascoltatori che daranno la risposta esatta da questo quizzettone arriverà il libro. Adesso tra poco invece arriva il nostro GR, ma prima ancora arriva un amico di Radio 24, Maurizio Melis. Ciao Maurizio. Ciao Nicoletta. Hai sentito che parlavamo di te? Sì. Perché quando il dottor Franzetti ha detto bene, nelle nostre case si può fare tanto, ha detto ce lo racconterà Maurizio Melis, che conoscete benissimo, che è conduttore di Smart City, Voce Luoghi dell'Innovazione. A proposito di innovazione nelle nostre case, possiamo fare qualche cosa? Dacci solamente una parola, perché poi andiamo al GR e ritorniamo subito dopo insieme. Fatti un lancio da solo. Si possono fare, diciamo, si possono avere un po' di accorgimenti, mettere dei materiali dai tappeti alle tende, per esempio, che riducono un pochettino i rumori. Però ecco, non bisogna farsi illusioni, per affrontare il tema dell'acustica bisogna lavorare sull'edificio quando lo si ristruttura o lo si costruisce, ecco, diciamo, allora, senza avere troppe aspettative. Vi aspetto subito dopo il GR per acufeni, consigli per attutire un po' il rumore e naturalmente il nostro quizzettone, e poi la casa, il nostro investimento. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Cuore e denari. Questo è il miagolio del gatto che disturba il riposo del nostro Carmelo Lauricella, che infatti mi ha scritto un messaggio e mi ha raccontato che l'unico rumore molesto a casa sua è il miagolio del gatto della vicina, che essendo sordo quando esce sul balcone miagola a qualsiasi ora del giorno e della notte. Lei di gatti sordi non riesce ad occuparsi, dottor Franzetti? No, però si potrebbe o mettergli una protesi acustica al gatto oppure fargli cambiare la voce. Fagli cambiare la voce, perché dice è un po' fastidioso. È un po' acuto, sì. Allora, Maurizio, siamo ancora qui con te per dare delle indicazioni, delle dritte, perché allora il gatto disturba Carmelo, però lui esce, poverino, che cosa deve fare, no? Esce un po' sul balcone, miagola, è sordo. Ecco, nelle nostre case però noi possiamo proteggerci dal rumore che ci invade, in modo anche molto semplice. Tu parlavi dei tappeti, le tende sicuramente, ecco, no? Sì, un pochino, diciamo, attutiscono, sono... e poi bisogna, ecco, qui bisogna appunto essere onesti, diciamo, il rumore è un problema che è abbastanza facile da tenere sotto controllo se si preoccupa subito di quell'aspetto. È difficile correggere le cose a posteriori, come per tanti altri diciamo problemi della vita, diciamo così. Diciamo che ci sono le situazioni tipiche, quali sono? Intanto rumore proveniente dall'esterno, partiamo da qui. Sarebbe meglio ridurlo all'origine. Per esempio il traffico è grande causa di rumore, ci sono degli asfalti che sono gommati, questo lo possono fare le amministrazioni pubbliche, hanno dentro del polverino di gomma di vecchi pneumatici riciclati che abbatte notevolmente il rumore. Però insomma, quando ci arriva possiamo cercare di proteggerci con delle barriere, anche del verde per esempio, il verde urbano funziona molto bene e un po' di piante su un balcone qualcosa fanno. Dopodiché bisogna cercare di tenerlo fuori il rumore, quindi se ci sono serramenti scadenti è il caso di cambiarli, magari approfittando anche delle detrazioni fiscali, perché si ha un beneficio energetico, ma spesso il beneficio più importante di un buon serramento è che ti riporta al silenzio dentro casa. Dopodiché in casa che cosa si può fare? Per esempio, se ci sono problemi di rumore da calpestio, un tappeto aiuta, dipende dal... certo, i tacchi si sentiranno molto meno, sono piccoli accorgimenti, tutti i tessuti pesanti hanno una capacità di assorbire e di ridurre il rumore ambientale, quindi tendaggi molto pesanti, tipo quelli del cinema, però se li metto davanti alle finestre poi non entra più la luce. Ecco, il problema si affronta seriamente solo facendo delle opere che un minimo, insomma, di... Oh, mi ha incuriosito molto questo asfalto con la polverina. Pensa che tra l'altro questi asfalti durano anche molto più a lungo perché sono più elastici. Ma costano così tanto? Li stanno utilizzando? Si stanno utilizzando molto poco. Si stanno utilizzando molto poco rispetto a quello che si potrebbe fare. Non è che manchino i pneumatici per ricavare il polverino, come puoi immaginare. Ce ne sono milioni e milioni. Senti, tu con i suoni, orecchie, eccetera, sei abbastanza a posto? Apriamo, lo so, perché conosce il dottor Burdo, Maurizio Melis. Ma non sono così tanto a posto, anzi volevo farmi vedere prima o poi, che come sempre si rimandano queste cose eternamente. Anche perché ho suonato per tanti anni con volumi un po' alti, quindi ecco, la cosa probabilmente... potrebbe essere danneggiato l'orecchio del nostro Maurizio, l'udito del nostro Maurizio per aver suonato... Adesso non suoni più, Maurizio? Sì, ancora adesso, ma ho imparato a tenere i volumi. Ma cosa ha suonato? Suonavo la chitarra elettrica all'epoca. Vabbè, quindi... allora potrebbe essere. Vieni fin qua che il dottor Franzetti ti dà un occhio. Grazie Maurizio Melis. Dottor Franzetti, lei ci aveva promesso un quizzettone, facciamolo subito, e poi come spegnere l'acufene utilizzando la musica, non quella che suona Maurizio Melis forse, ma andiamo al quizzettone allora, che permetterà, do l'indicazione a due dei nostri ascoltatori, che chiamerà il primo ascoltatore che chiamerà all'800240024, il primo che manderà una mail a cuoredenari@radio24.it, quindi così facciamo le cose per bene, il libro di Walter Longo, La dieta della longevità, con tanto di autografo. Allora, dottor Franzetti. Velocissimo il quizzettone. Allora, come mai quando noi entriamo in un ambiente dove c'è un rumore molto forte, la discoteca piuttosto che un concerto dove siamo davanti a delle casse, quando usciamo ci fischiano le orecchie per un certo periodo? Risposta numero uno. Perché siccome il nostro cervello è immerso in un liquido e l'onda sonora fa vibrare tutta la teca cranica, quindi l'osso, mette in vibrazione questo liquido in maniera troppo energica e il cervello per un certo periodo va incontro a questi fenomeni che si chiamano dei falsi acufeni. Seconda risposta. Perché siccome quando noi siamo sottoposti a un rumore molto forte contraiamo i muscoli, quindi contraiamo anche i denti, il condilo mandibolare che è attaccato alla mandibola e va proprio a schiacciare sotto l'orecchio un'arteria che è l'arteria auricolare, riduce il flusso di sangue per un certo momento verso l'orecchio e questo scatena un fischio che dopo si compensa e quindi scompare. Risposta numero 3. Siccome l'onda sonora che entra attraverso il condotto uditivo mette in vibrazione troppo forte la membrana timpanica, la catena degli ossicini e uno di questi che si chiama staffa entra in maniera forte nella finestra che ci porta nel liquido della chiocciola, questo fenomeno di ingresso violento in questo liquido provoca un danno alle celluline nervose che genera questo fischio che dopo quasi sempre si compensa. Certo che li ha fatti difficili e ci confonde anche con tutti questi termini, con tutti questi termini medici. Intanto saluto Paola Dezza di Casa Plus 24. Ciao. Paola, oggi parliamo, adesso stiamo parlando di udito, ma con te parleremo delle case, un investimento che no? È un po' il sogno di tutti gli italiani, l'investimento del cuore. Mi tocca parlare di denari per una cosa di cuore. Allora, 800 24 00 24, dottor Franzetti, per quanto intanto, sintetizzando quindi, mi stavo domandando che cosa potrà pensare magari un suo collega Torino, che magari ha acceso Radio 24 così e sente lei che racconta di tutte queste cose che possono capitare alle nostre orecchie con l'ingresso di un'onda sonora. Ma quindi risposta numero uno per sintetizzare. Il liquido che va dove c'è il cervello che va in vibrazione in maniera troppo forte. Risposta numero due. La contrazione del condilo mandibolare verso l'orecchio. La risposta numero tre. Il sprofondamento troppo violento nella staffa dentro la chiocciola. Allora, è abbastanza complicato, ma due libri potrebbero arrivarvi e adesso andiamo a dare una soluzione, un suggerimento a chi invece ha un problema di acufeni. Acufeni, dicesi acufene, quel suono, fischio, ruscellino, scalpiccio, quel rumore che avvertiamo all'interno del nostro orecchio. Sì. Anche un rumore che assomiglia al battito cardiaco. Può essere rientra negli acufeni. Certo. Okay. Allora, il consiglio è questo: bisogna prendere una musica, di solito una musica ripetitiva, C'è chi usa una musica classica, c'è chi usa musica zen, musica new age, prendete quella che volete. Sì. E dovete portarla a un volume tale, che chiamiamo 10, ascoltando la quale viene mascherato i rumori che voi normalmente sentite. Quando trovate questa musica e l'ascoltate per un 15-20 minuti e non sentite il rumore, chiaramente quando scompare la musica ritorna il rumore, dovete iniziare a allenare l'orecchio per circa un mesetto ad ascoltare tutti i giorni 10-15 minuti a quel volume che maschera la musica. A un certo punto vi accorgerete che mentre ascoltate la musica automaticamente il rumore scompare. Allora a quel punto abbassate il volume fin quando iniziate a ritornare a sentire il vostro acufene e ritornate ad allenarvi 15-20 giorni, 15-20 minuti tutti i giorni ad ascoltare la musica a quel volume più basso. Vi accorgerete che dopo un certo periodo non sentirete più perché l'acufene viene mascherato. Allora a quel punto abbasserete ancora il volume della musica e così via andare, cercherete di spegnere l'acufene. In media quanto ci vorrà, dottor Franzetti? È soggettivo. Diciamo che almeno il 50% delle persone ce la fanno in qualche mese. Allora, voi provate, raccontateci le vostre esperienze, il nostro quizzettone attende le vostre risposte dal nostro... dalla regia ci stanno già segnalando, vero? Ci sono? Però prima di dare la risposta e quindi assegnare i due libri, saluto Benedetta Spada che è in linea con noi, perché abbiamo pensato di chiudere questa prima parte di Cuore Denari per parlare poi del nostro investimento casa con un esercizio per recuperare un po' il silenzio che c'è dentro di noi. Allora, questo, il fatto di cercare il silenzio dentro di noi può suonare un po', no? Strano e anche un po' ironico, perché come ci ha detto il dottor Franzetti, dentro il nostro corpo ma anche nella nostra mente, no? Ci sono un'infinità di suoni, di rumori che ci accompagnano e a volte ci infastidiscono. Però ci affidiamo a Benedetta Spada che con questo esercizio ci traghetta dalla prima alla seconda parte della trasmissione. Ciao Benedetta! Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, intanto noi siamo pronti per un esercizio? Assolutamente, io sono pronta qua per voi. Quindi ricordiamo innanzitutto che esistono due tipi di ambienti sui quali tutti dovremmo vigilare attentamente, che è, appunto è quello esteriore e quello interiore. Come dicevi tu prima, siamo ricchi di rumori. E possiamo fare un check ogni giorno, noi dovremmo farlo quando ci svegliamo oppure, se non riusciamo, durante l'arco della giornata almeno 2-3 volte. Siamo seduti in una posizione comoda e iniziamo a portare la nostra attenzione portando le mani come delle orecchie sul nostro torace e proviamo a percepire semplicemente appoggiando una o due mani, come preferiamo, all'altezza del torace, se il nostro respiro è presente in quella parte del corpo e se è presente, se il respiro è molto attivo, pregnante. Siamo lì per qualche secondo. Se questo accade, cioè se sentiamo che il nostro respiro è molto attivo, presente nella parte alta, quindi appunto all'altezza del torace, dovremmo cercare di sospingerlo verso la parte bassa, verso l'addome, ovvero appoggiando le mani sull'addome, volontariamente proviamo a percepire il nostro respiro. Per far questo, chiaramente, abbiamo bisogno di sospendere l'attenzione da tutto ciò che è esterno a noi. Paramahansa Yogananda, il grande yogi, ricordava appunto di in qualche modo disconnetterci. Sì, facciamo un po' di pulizia. Esatto, bravissima. E sentire se il nostro respiro è un respiro profondo addominale, quindi quando inspiriamo percepire proprio questa onda. Qua lo stanno facendo, no, Carmelo no, anch'io, Carmelo pensa anch'io, al suo gatto, ma lo che lo... con voi. Però guarda, anche il dottor Franzetti. Allora, noi abbiamo, sì. passiamo quindi da questa indicazione alla pratica, quindi? Sì, quindi nel momento in cui noi facciamo questo check è importante riconnetterci ogni giorno con una respirazione addominale, quindi dobbiamo concederci pochi minuti, 3 minuti, 5 minuti, facendo dei semplici esercizi, gonfiando praticamente l'addome un po' come un palloncino, andiamo a sgonfiarlo soffiando come quando compiamo gli anni e soffiamo le candeline, no? Soffiamo dalla bocca, proprio come un soffio sottile, e volontariamente svuotiamo l'addome sospingendo proprio la pancia in dentro, un po' come quando... Come ad agganciare l'ombelico, esatto, come insegna Lisetta Landone, alla, che tu conosci bene, alla spina dorsale, vero? Un risucchio di ombelico. Esatto, e lo dobbiamo fare almeno una decina di volte piano piano. Questo esercizio lo possiamo fare anche in ufficio, anche chi ci ascolta, certo, in questo momento lo può fare. Anche in metropolitana. Anche in metropolitana, ed è un modo tra l'altro per allentare tutto il rumore, non solo esterno ma anche della mente, quando siamo molto sotto stress, il respiro soprattutto, certo, si porta troppo verso l'alto e ci affatica un po'. E poi la mente è piena a volte di pensieri, di parole, di idee. Ci aiuta un po' a svuotarla, non troppo, svuotarla, perché io ad esempio, esatto, se già la svuoto delle due, dei due pensierini che ho, è finita. Senti, intanto voglio ricordare che Benedetta insieme a Mark vi aspettano, se siete milanesi, questo venerdì, sabato e domenica al Teatro Franco Parenti, con tre serate proprio dedicate allo yoga. Quindi se la respirazione che vi ha raccontato Benedetta vi ha incuriosito, già la conoscete, volete fare di più, andate, magari è vicino proprio a casa vostra, tema di casa di cui parleremo con Paola. Allora abbiamo Reggi, non so che però è caduto, ma da Grosseto ha chiamato il nostro numero verde e ha detto che la risposta giusta era, dottor Franzetti, la numero 3. È vero, la numero 3, e quindi è colpa di questa staffa. La staffa che entra violentemente nella coclea. E la mail, la prima a scriverci, è stata Gabriella da Napoli, e quindi faremo arrivare, loro ci chiameranno per darci gli estremi e noi manderemo il libro di Walter Longo. Grazie, dottor Franzetti, per essere stato con noi. Grazie a tutti. Vi ricordo anche che oggi è la giornata mondiale dei linfomi, giornata mondiale per la consapevolezza sul linfoma. C'è un'indagine che proprio svela proprio i bisogni degli italiani che vivono con questa malattia, e parte una campagna che ha proprio un po' l'obiettivo, è distribuita in tutti i centri di ematologia italiana, di raccontare attraverso le immagini il valore del tempo per le persone che soffrono di questa malattia. Potete trovare sulla nostra pagina l'intervista ad un medico, ad un rappresentante dell'associazione che ha curato questa indagine, si chiama Linfo Vita Onlus, e quindi andate sulle pagine di Cuore Denari per saperne di più. Allora, adesso è tempo di cambiare tema, tocca a te, Paola, darci tutte le indicazioni, perché oggi ci occuperemo di un investimento che sta molto a cuore agli italiani, no? L'investimento, la casa, è così. 800 24 00 24 è questo il tema del nostro appuntamento di Investire Informati. Investire Informati. Allora, 800 24 00 24, tu stai ancora respirando? La pancia, l'ombelico, poi l'acufene, sentite la musica, respirate, mangiate, non mangiate e muovetevi, mamma mia. Allora, intanto fate il numero verde 800 24 00 24, scherzi a parte, se state progettando un investimento magari immobiliare, magari state pensando all'acquisto della casa dei vostri sogni, oppure una casa che vorreste acquistare per affittare, la casa per il figlio, oppure ancora cercate di vendere casa e aspettate però che arrivino dei tempi migliori, con Paola Dezza, noi siamo qui, anzi soprattutto c'è lei, di Casa Plus 24, del Sole 24 Ore, che ci racconta e ci dà delle indicazioni, anche perché oggi sono proprio usciti i dati dell'osservatorio trimestrale dell'Agenzia delle Entrate sul mercato immobiliare. Allora Paola, ti chiederei di darci un po' un'idea di come sono andati. Iniziamo dalle considerazioni generali, poi andiamo nel dettaglio, guidati anche naturalmente dalle richieste dei nostri amici. Certo, allora diciamo che questi dati erano un po' un banco di prova, erano molto attesi, perché dopo un primo trimestre 2016 in cui le compravendite erano salite nell'ordine del 20% in tutta Italia, si aspettavano questi dati per capire effettivamente qual è il trend del mercato, e i dati sono molto positivi. È stato un dato sorprendente, in controtendenza rispetto a quella che è la situazione economica generale, a quelle che sono anche le paure, le tensioni geopolitiche che stiamo vivendo in questi mesi. Quindi il dato del residenziale in particolare è particolarmente positivo, più 23% le vendite di case in Italia, ancora una volta con un mercato trainato da quelle che sono le grandi città e i capoluoghi, soprattutto al nord. Quindi dicevano che sarebbe stato un secondo trimestre fiacco, invece... Invece cannato. Non è stato così. Ed è stato positivo un po' per tutti i settori, perché è vero il residenziale ha fatto più 23%, ma tutto il mercato real estate, che comprende quindi anche produttivo, commerciale, terziario, ha fatto più 21,8%. Quindi in realtà è tutto il mercato che ha avuto un trimestre positivo. I dati poi del trimestre successivo, che avremo fra qualche mese, terranno conto dell'estate, saranno ancora più indicativi per capire come andremo a chiudere l'anno. Tutti propendono però per una chiusura del 2016 a questo punto chiaramente con compravendite in rialzo nell'ordine del 15% almeno. E dicevi che i dati sono particolarmente buoni nelle città, nelle grandi città. Sì, diciamo che le 8 maggiori città italiane per numero di popolazione sono quelle che sono, che vanno meglio, così anche i capoluoghi. I capoluoghi in particolare al nord, però sono andate bene anche le zone dell'Interland di queste 8 grandi città, quindi è un mercato che si sta riprendendo, diciamo. Senti, nei giorni scorsi con Deborah abbiamo parlato dei tassi particolarmente bassi che rendono i mutui molto convenienti, quindi gli italiani ne stanno approfittando e forse anche le banche, immagino, stanno concedendo i mutui con un pochino più di facilità. Sì, diciamo che tutte e due le cose sono vere, diciamo, nel senso che proprio i tassi di interesse così bassi sono un driver importante per chi decide di acquistare casa, perché la maggioranza delle compravendite è chiaramente fatta con una parte di mutuo, e in questo momento si possono avere dei mutui con un tassi fissi intorno al 2%, chiaramente, pensando che poi, prima o poi, più poi che prima, i tassi ripartiranno. In questo momento è giusto valutare chiaramente un acquisto. I prezzi sono scesi negli ultimi 8 anni, quindi sono più interessanti rispetto a prima. C'è anche una buona parte di contrattazione ancora che si può fare, nel senso che lo sconto sul prezzo richiesto è ancora abbastanza interessante, per cui l'italiano torna a considerare questo investimento. Teniamo conto che poi nel panorama generale degli investimenti non ci sono asset class alternative all'immobiliare interessanti oggi, perché se guardiamo i titoli di Stato hanno interessi risicati quasi a zero, le azioni comunque hanno un certo rischio. Si torna un po' al mattone. Si torna un po' al mattone. Prima di andare ai mercati, secondo te ci sono più possibilità nel mercato di chi cambia casa e quindi ne vende una già che possiede per acquistarne un'altra, oppure nel mercato del primo acquisto? Così rispondiamo anche a un ascoltatore che ci ha mandato un messaggio su WhatsApp. Ma diciamo che il mercato residenziale è fatto molto dalla sostituzione, cioè in gran parte sono le persone che cambiano casa per che fanno il mercato per comprare magari una più grande o anche una più piccola se ci si separa, quindi diciamo il mercato della sostituzione è quello più importante. Però con i mutui così interessanti e le banche che sono tornate comunque a finanziare l'acquisto, anche le giovani coppie o le persone che comunque non avevano più considerato l'acquisto negli ultimi anni tornano a pensare a questo tipo di investimento, anche perché rispetto all'affitto pagare un mutuo con un tasso così basso alla fine è più interessante. Adesso andiamo a sentire che cosa succede alla borsa e poi ritorniamo subito dopo insieme a Paola Dezza con le vostre domande sulla casa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e denari. Noi siamo i giovani. E i giovani sono sempre nei nostri pensieri. Oggi in particolare c'è una notizia importante per tutti i diciottenni. Averli, 18 anni. Allora, infatti è possibile da oggi, per chi ha compiuto o compirà 18 anni nel 2016, usufruire del bonus diciottenni di 500 euro in arrivo dal governo per acquistare libri, ingressi in musei o altri servizi culturali. Per riceverlo è molto semplice, basta registrarsi e scaricare un'app che è stata creata appositamente. Allora, quindi avete dei figli diciottenni, diventeranno magari maggiorenni nell'anno nel 2016, attivatevi. Noi ve lo diciamo perché magari questa possibilità, questa data vi era sfuggita, e iniziate intanto voi a raccontarci se ne avete parlato con i vostri ragazzi, se pensavate magari proprio oggi di provare a inoltrare subito la richiesta. Noi abbiamo pensato di darvi una giornata di tempo per fare tutti i vostri tentativi, i vostri pensieri, segnarvi, appuntarvi eventuali dubbi e domande, e domani tornate con noi a parlarne a Cuore Denari, dando spazio quindi alle vostre storie. Potete scriverci già anche via mail a cuoredenari@radio24.it. Adesso però continuiamo a parlare di casa, continuiamo al nostro spazio di Investire Informati, parliamo di investimento del mattone, per chi si fosse sintonizzato solo ora con noi, insieme a Paola Dezza del Sole 24 Ore. Paola, a proposito dei giovani, può essere questo quindi il momento buono per acquistare una casa, con l'obiettivo magari di lasciarla in un futuro ad un figlio oggi diciottenne, e magari nel frattempo ipotizzando di averlo a carico ancora per un po', magari affittarla a terzi? Insomma, in generale, è un buon momento per comprare e affittare? È un investimento consigliabile? Allora, diciamo che l'investimento nel mattone è sempre un investimento interessante, perché i cicli del mattone sono cicli particolarmente lunghi. Noi adesso siamo alla fine di un ciclo negativo che dura da 8 anni, quindi si dovrebbe vedere la fine di quello che è stato un tunnel molto, molto pesante. Investire in questo momento ha come dati, diciamo, positivi il fatto di avere dei tassi molto bassi se non si paga tutto in contanti, il fatto di poterlo mettere a reddito anche se... Quindi compro e affitto anche se diciamo non ha dei tassi di rendimento altissimi l'affitto di un appartamento, però oggi ci sono delle formule nuove, per esempio l'affitto breve, che permette di avere dei guadagni più alti. Infatti si sta sviluppando moltissimo questo affitto, magari per 2-3 notti a settimana, non solo nei luoghi turistici diciamo lungo le coste, ma anche nelle città turistiche. Anche città come Milano hanno visto un boom di questa tipologia di investimenti. Oppure si può affittare agli studenti, e lì il tasso, da quello che può essere un 2-3%, sale a un 4-5%, perché si affitta a stanza. Con il fatto che si denuncia poi l'affitto e si paga la cedolare secca, che è non va a incidere, diciamo, sul reddito generale, si paga una percentuale su quello che si percepisce, può essere un investimento valido. Ci si trova una casa dalla quale si possono poi mandare magari i figli una volta cresciuti, oppure la si può rivendere un domani per comprare una seconda casa. Gli italiani stanno facendo anche questo ragionamento. Questa seconda casa, insomma, è il momento di farsi la casa al mare, in montagna, al lago. Cosa ci dicono i dati? Allora, diciamo che le case in montagna, al lago, sono effettivamente più un costo che un investimento, nel senso sono un investimento che poi uno si trova con la proprietà comunque di un appartamento, però la stagione in genere è sempre molto corta, quindi anche nel momento in cui si va a affittare questa tipologia di case bisogna tener conto del fatto che le si possono affittare per brevi periodi all'anno, hanno dei costi di manutenzione in generale abbastanza costosi, perché in montagna si parla del riscaldamento, al mare magari si deve rifare la verniciatura perché la salsedine la rovina, eccetera eccetera, quindi diciamo bisogna mettere in conto. Però l'acquisto della seconda casa è sempre stato un acquisto del cuore, nel senso ci si innamora di un posto, si desidera avere un luogo dove scappare nei weekend, quindi è più un acquisto che si fa di impulso, di cuore, diciamo, piuttosto che non ragionando a tavolino facendo dei conti. Però gli italiani che hanno comprato negli ultimi anni molto la seconda casa all'estero ci stanno un po' ripensando, perché gli ultimi dati di luglio mostrano un calo del 4% negli acquisti all'estero, mentre fino a qualche mese fa gli italiani acquistavano a Londra, a Parigi o comunque al mare. Adesso tornano a casa, tornano un po' a comprare entro i confini nazionali, che quindi è un dato, è un bel positivo segnale, per il nostro paese. Senti Paola, ma pensiamo anche a chi ha una casa da vendere però sta aspettando un po' il momento buono che non sembra mai arrivare, no? Conviene realizzare, oppure si può ipotizzare che nel giro di qualche anno i prezzi possono tornare a salire, quindi conviene aspettare un po'? Allora, se c'è necessità di vendere, si prende in considerazione la vendita, altrimenti, visto che non ci sono, diciamo, opportunità interessanti di investimento alternativo in questo momento, secondo me, però, ripeto, un parere personale, io aspetterei, nel senso che i prezzi, se si guarda da qui a 5 anni, 10 anni, dovrebbero tornare a salire. Già i dati di Standard & Poor's in agosto danno in Italia prezzi stabili e in leggera la salita l'anno prossimo e nel 2018, poi dopo il mercato dovrebbe tornare in salute, si spera. Allora, io ti leggo un messaggio che ci arriva al 349-238-6666 che dice: voi non tenete conto che con il calo demografico le case vuote saranno sempre di più e quindi i prezzi delle case non potranno aumentare. Che ne pensi? Ma non saprei dare una risposta, nel senso, i dati si costruisce che ancora tanto, quindi... I dati dicono che c'è un andamento, no? Che ci può far rincuorare. Sì, così? I dati di compravendite dicono questo. Poi è vero che bisogna guardare sempre la location, nel senso, nel centro di Milano, di Roma, è più facile vendere un appartamento. Se io ho acquistato invece in provincia, in Veneto, in questo momento mi trovo un mercato stagnante nel quale i prezzi è difficile che si riprendano. Senti, non c'è naturalmente solo il settore residenziale, gli altri settori però in generale come vanno? Gli altri settori sono andati bene, in particolare è andato bene il produttivo che ha visto un rialzo delle compravendite quasi del 30%, e in generale hanno registrato un più 22% di compravendite, quindi anche negozi, anche gli uffici stanno tornando a una situazione di maggiore serenità, diciamo così. Senti, prima di andare al traffico, dacci due indicazioni anche sulla ristrutturazione, perché noi possiamo trovare delle belle occasioni in case che però sono proprio veramente da ristrutturare, cioè da metterci mano, come si dice. Ne vale la pena? Ci aiuti a fare un po' di considerazioni, ad esempio quando conviene investire, quali elementi potrebbero anche orientare o guidare la nostra scelta? Allora, diciamo che per quanto riguarda il discorso della ristrutturazione ci sono diversi incentivi che sono proprio la detrazione di queste spese importanti che sono state confermate comunque dal governo, sia per quanto riguarda l'efficientamento energetico che la ristrutturazione vera e propria. Quindi è interessante acquistare una casa da ristrutturare, perché uno poi disegna la casa che vuole, per sé. Certo. Quindi nel momento in cui compro una casa che è completamente da rifare, scelgo veramente bianca, tutto quello che desidero, però sborso anche. Però sborso in 10 anni, diciamo, rientro di una certa cifra. Ci sono poi due correnti di pensiero, che sono quella appunto di comprare una casa nuova, appunto nuova, perché è già fatta, un efficientamento energetico decisamente moderno, perché è fatta con standard che sono più all'avanguardia, e chi invece subisce ancora il fascino delle case magari d'epoca da ristrutturare. Lì sono gusti. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, ritorniamo subito dopo insieme con un'altra ospite che ci raggiunge. A tra poco. Cuore e denari. Conti, conti, conti, che sei la mia passione, io parlo, parlo del mattone, non trovo carini. E noi continuiamo ad occuparci del mattone nell'appuntamento di oggi con Investire Informati, investimenti sulla casa, di cui stiamo parlando con la nostra Paola Dezza del Sole 24 Ore. Paola, eccoci qua. E siamo pronti a salutare anche un'altra ospite che ci raggiunge al telefono. Do il buongiorno al notaio Pierluisa Cabiddu, consigliere nazionale del notariato con delega ai rapporti con i consumatori. Notaio, buongiorno. Buongiorno. Il vostro consiglio nazionale, notaio, proprio in collaborazione con le associazioni dei consumatori, ha organizzato un'iniziativa importante per la prossima settimana, Casa Bene Primario. Partiamo da qua, ci racconta di che cosa si tratta? Sì, molto volentieri. Grazie. Allora, già lo slogan dell'iniziativa indica l'obiettivo che si vuole raggiungere, Casa Bene Primario, come acquistarla in sicurezza, notai e associazioni dei consumatori insieme per tutelare i cittadini. Il notariato italiano e 13 associazioni di consumatori, di Consumado, Casusbef, Altro Consumo, Assutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanza Attiva, Consumatori, Federe Consumatori, Lega Consumatori, Movimento sì. Consumatori, Difesa dei Cittadini, Unione Nazionale Consumatori, li abbiamo indicati tutti, 13, ecco. Perché era giusto insomma certo. anche indicarle, perché in sinergia col notariato hanno organizzato questo importante evento, un evento che si terrà il 21 settembre prossimo in 5 città italiane: Cagliari, Catania, Como, Roma e Salerno. In queste città notai e rappresentanti delle associazioni saranno presenti nelle piazze stabilite per offrire appunto ai cittadini informazioni su ciò che è necessario sapere e fare per acquistare la casa in sicurezza. E quindi sarà distribuito un foglio informativo che indica i passaggi importanti da seguire, che si può anche reperire sul sito del notariato www.notariato.it e sui siti dell'Associazione dei Consumatori. Notaio, allora abbiamo detto tutto, le 13 associazioni dei consumatori le abbiamo ricordate, le 5 città italiane: Cagliari, Catania, Como, Roma, Salerno, e quindi questa è una buona occasione per approfittarne, no? Perché è un'occasione anche per segnalare gli aspetti a cui fare attenzione quando si va a un investimento così importante, proprio in questo momento in cui il mercato sembra riattivarsi un po', questo è bene ricordarlo, perché non solo dal punto di vista economico ma anche da quello giuridico ci sono delle cautele, si corrono un po' di rischi, no? Quali sono le principali insidie, notaio? Le vogliamo ricordare? Sì, sono tante, ma insomma, a che cosa fare attenzione, sì, proprio per non fare errori grossolani? Assolutamente, sicuramente l'acquisto della casa presenta numerose insidie sul profilo giuridico, fiscale, catastale, urbanistico, principalmente a causa della complessità del nostro sistema giuridico e delle leggi, che sono veramente tantissime. Allora, preliminarmente occorre verificare che sulla casa non vi siano gravami, quindi non ci siano ipoteche, pignoramenti o vincoli che possono anche escludere o limitare la circolazione dell'immobile. Un caso molto diffuso: i vincoli che esistono sulle aree poste in piani di zona per edilizia economica e popolare, oppure gli usi civici, vincoli paesaggistici, per citarne alcuni. Quindi questo è sicuramente importante da verificare subito con le misure nei pubblici registri immobiliari, che misure che servono anche per verificare che la storia giuridica della casa sia regolare. Quindi queste principalmente le cose. Ecco, noi naturalmente potete poi riascoltare il podcast come sempre se avete delle domande, ma anche il Sole 24 Ore si è occupato e ci aiuta come sempre in questi momenti, no? In cui bisogna essere informati, consapevoli, rizzare le orecchie. Oggi abbiamo parlato di udito, aprire gli occhi, non cadere nelle trappole. Paola. Allora, al di là di appunto Case Case, dove ogni giovedì diamo delle indicazioni, sono uscite in passato delle pubblicazioni anche quest'estate sugli investimenti. Uscirà il 27 settembre il terzo volume dei tuoi diritti dedicato alla casa, quindi abbiamo regolarmente delle pubblicazioni, e per chi vuole un piccolo riassunto su tutto quello che concerne la casa, l'acquisto, la ristrutturazione, anche il MEF ha sul proprio sito una pubblicazione dalla scorsa settimana che può essere utile per avere un quadro completo sul mondo della casa. Allora andiamo subito a Tino da Milano, ultimi minuti di trasmissione. Tino, buongiorno. Buongiorno. Tino, eccoci qua. Allora. Io sono un costruttore, vendo appartamenti, vendo case e sono completamente d'accordo con la vostra esperta. Oh, bene. C'è stato un aumento delle vendite, sicuramente dobbiamo facciamo degli sconti. Mm. Ecco, però il leasing immobiliare, il leasing per le giovani coppie, così, non ho mai... Non sento più niente, e non c'è nessuna richiesta in questa città. Il nostro notaio può dare una risposta? Sì, diciamo che il leasing immobiliare è un altro strumento che è stato approntato con la legge di stabilità 2016, quindi è entrato in vigore dal 1 gennaio, che consente appunto di acquistare la casa d'abitazione anche con questa nuova forma giuridica, quindi il leasing. Diciamo che ci sono anche molte agevolazioni, soprattutto per i giovani sotto i 35 anni, sia dal punto di vista delle detrazioni, sia dal punto di vista dell'acquisto, per quel che riguarda l'IVA se si acquista dal costruttore o l'imposta di registro se si acquista da un privato. Diciamo che il compito anche nostro adesso con questa campagna informativa nelle 5 piazze è quello anche di spiegare al cittadino che intende acquistare una casa che esistono anche altre forme alternative. Ecco, metodi alternativi. questo leasing immobiliare abitativo. E quindi è molto importante che il cittadino comunque si rivolga al notaio sin dall'inizio delle trattative per essere guidato in questo difficile percorso. E gli verrà quindi spiegato nel dettaglio esattamente qual è l'iter che deve seguire, anche in che cosa consiste nel dettaglio questo leasing immobiliare. Allora, notaio, io rimando al sito www.notariato.it. A proposito di sito, i giovani, parte oggi il bonus 18enni, 500 euro in arrivo dal governo. Mi state chiedendo i siti. I siti sono www.18app.it oppure scritto 18app. Tutti insieme, ma non risultano ancora attivi come segnalano i quotidiani online. A tra poco, a domani.